Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccoci qui, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, per una puntata speciale, monografica, tutta dedicata a un tema che fa muovere il mondo, possiamo dire, di cui è stato detto tutto e niente, perché se ne continuerà a parlare sino alla fine del mondo, quando mai sarà, perché è un argomento inesauribile, quello che forse sta più a cuore di tutti, anche penso i più cattivi, i più insensibili, un tema enorme al quale cerchiamo di dare, con vari ospiti che tra poco vi presenterò, così qualche risposta, qualche spunto, qualche suggestione. Ma sentiamo un po' già una prima suggestione musicale. Per mari e terre ho camminato, coi re, coi poveri ho parlato, cercavo di sapere che cos'è l'amore. Cosa sarà questo amore? Questo è il tema di questa puntata. Soprattutto, come cambia l'amore? Come è cambiato negli ultimi tempi? I tempi cambiano e l'amore è un buono specchio di come cambia la società. O forse la società che fa cambiare l'amore. Quindi, insomma, è sempre la storia dell'uovo e la gallina. Però, intanto, le riflessioni, gli spunti possono essere tanti, no? L'amore al tempo di internet e dei social network. Sicuramente questi hanno condizionato molto il modo di creare, di intessere le relazioni, e poi anche l'amore al tempo della vita mordi e fuggi. Sicuramente i tempi sono diventati tanto più veloci, tutto è un po' più, come si potrebbe dire, un po' più da turnover, le cose cambiano molto velocemente, la vita corre in fretta. Oppure anche l'amore al tempo della massima libertà sessuale, anche se poi, insomma, tante cose, ogni tanto si fanno dei passi indietro, i rapporti tra i sessi sono sempre un po' conflittuali, ancora ci sono dei grossi divari, almeno parliamo anche del mondo occidentale, non parliamo di tutto il resto. L'amore, si potrebbe dire, per quanto riguarda l'Italia, anche l'amore al tempo dell'escort o l'amore al tempo del precariato. Forse è precario anche l'amore perché è precario tutto il resto, e poi le coppie di fatto. Qualcuno dice ormai esistono solo storie fugaci. Insomma, ci sono sicuramente oggi delle esigenze più forti di autorealizzazione, no? Sia da parte delle donne, in particolare degli uomini che l'hanno sempre avuta, e anche esigenze di felicità. Le scelte sono più numerose, più reversibili. Allora, vediamo un po' gli ospiti come possono costruire un po' questa trama, dico di risposte, insomma, come dicevo, di suggestioni, di spunti intorno a questo tema. Signore e signori, dunque oggi ci sono... Anna Maria Bernardini De Pace. Anna Maria, benvenuta. Grazie, ben trovata. Avvocata, divorzista, possiamo dire la matrimonialista più famosa d'Italia. E poi c'è Gioele Dix, attore e scrittore. Gioele. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera a te. Gianna Schelotto, psicoterapeuta, scrittrice, curatrice di un forum sull'affettività per il Corriere della Sera. Gianna. Buonasera a tutti. Alessandro Amadori, che è psicologo, ricercatore, direttore di Coesis Research, che è un istituto di ricerca. Alessandro, tra l'altro, sta scrivendo un libro proprio sull'amore, poi ce ne parlerà. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Roberto Ruspoli, scrittore e artista. Ultimo libro, L'educazione, vi prego, sull'amore e altri consigli per vivere bene. Quindi evidentemente è prolifico, potremmo dire, di consigli tra poco sull'amore. Vediamo se Roberto Ruspoli, ciao, ci darai dei consigli, delle indicazioni utili, che è difficile dare, ma insomma ognuno dal proprio punto di vista. Vorrei partire da Anna Maria Bernardini De Pace. Anna Maria, perché dal tuo punto di vista, diciamo, è un osservatorio privilegiato, no? Il tuo lavoro che dura da tantissimi anni e che ti ha portato a livelli in cui sei. Il matrimonio, intanto, dai dati Istat è in crisi assoluta in Italia. Diciamo che dagli anni 70 più o meno il numero di matrimoni celebrati in Italia è costantemente diminuito, si è quasi dimezzato negli ultimi 35 anni, passando, secondo appunto i dati Istat, dai 420.000 del 1972 ai 246.000 del 2008, e sono in costante aumento separati e divorziati. Ogni anno, pensate, 160.000 nuovi separati, 100.000 divorziati. Sono in aumento le seconde unioni, forse perché uno prima si pente, poi dopo invece gli viene voglia ancora del matrimonio, non lo so. Le seconde unioni contratte fra divorziati e vedovi che continuano a crescere. Queste seconde unioni sono raddoppiate passando al 6,5%, dal 6,5% al 13,8%. I primi matrimoni, cioè matrimoni quelli per la prima volta, sono piuttosto tardivi rispetto al passato, 33 anni per gli uomini e quasi 30 per le donne. Aumentano invece le convivenze, come possiamo chiamare appunto le coppie di fatto, i matrimoni civili anche e soprattutto al nord, i matrimoni misti, insomma. Questo è un po' il quadro, detto più o meno in numeri. Anna Maria, che dire? Allora, il quadro che cominciamo a fare partendo dalle macerie dell'amore, perché io vedo purtroppo l'amore nella fase patologica, l'amore nel dolore, l'amore che si è deteriorato e per cui i progetti della coppia si sono distrutti. Allora, principalmente io vedo la crisi di questi matrimoni nella mancanza di responsabilità che sempre più dimostrano le persone. Intanto ci sono meno matrimoni e più coppie di fatto, perché non c'è il coraggio di impegnarsi, non si ha il senso di responsabilità. Il matrimonio è qualcosa di sacrale che ti obbliga a contrattare, diciamo, anche col mondo oltre che con lo Stato. La coppia di fatto sembra qualcosa di più semplice, che non ha una sorta di rito solenne precedente, per cui sembra tutto più facile, e sembra anche più facile poi che ci siano delle scappatoie, che poi in realtà non è vero per niente, perché comunque ci si trova lo stesso dagli avvocati se ci sono dei figli, ma ci si ritrova lo stesso quando si sono messi insieme dei progetti di tipo economico o patrimoniale. C'è soprattutto quello che vedo io in questi miei 30 anni di lavoro, ho visto emergere sempre di più, c'è questa espressione bruttissima e terribile dell'individualismo, della ricerca del piacere piuttosto che del bisogno di onorare l'amore o un'altra persona, cioè il piacere personale. Ma non ci si sposa perché si è alla ricerca di una garanzia, però nello stesso tempo quando poi ci si sposa o ci si mette insieme si fa zapping tra le persone e tutto questo porta poi alla frattura matrimoniale. Zapping tra le persone mi fa venire in mente il libro di Joelle Dix, l'ultimo libro si intitola Si vede che era destino, pubblicato da Mondadori. C'è questa storia di questo quarantenne Michele che mentre sta per scrivere il suo ultimo libro si fa venire in mente una cosa un po' folle, quella di invitare alla festa dei suoi prossimi 40 anni che sono imminenti un po' tutte le sue ex. Joelle, tu dal tuo punto di vista di attore, anche di attore insomma ironico e comico oltre che scrittore, come la vedi? Era meglio quando si stava peggio, qualcuno dice, come si usa dire, meglio adesso? Beh, dunque, intanto diciamo la condizione di attore è una condizione precaria e girovaga per natura, quindi diciamo che noi siamo abituati da alcuni secoli ad avere un po' di una donna in ogni porto, vuoi dire, detto senza tanti giri di parole. No, assolutamente. No. Però di avere sempre il terreno un po' friabile sotto i piedi, di fare i conti con il problema della stabilità, che mi sembra sia uno dei temi forti, certo, che già veniva accennato anche dall'avvocata, cioè il problema di impegnarsi per una stabilità. E secondo me però è vero che fa poca differenza fare il matrimonio con tutti i crismi o fare una convivenza, il fronte è sempre quello. Dal punto di vista maschile credo che non sia una novità che l'uomo affugge, ha la tendenza a fuggire, ha sempre la sensazione che l'occasione migliore sia la prossima e non quella nella quale si è immerso, magari con grandissimo entusiasmo all'inizio. Quindi credo che il problema sia ancora una volta la responsabilità. In più forse la società attuale enfatizza questa mancanza di responsabilità. Infatti il protagonista del mio libro mitizza i suoi nonni che hanno vissuto 65 anni insieme, apparentemente senza mai macchia, invece andrà poi a scoprire che pure loro si sono sposati praticamente senza conoscersi, la nonna... Come spesso accadeva magari... cioè la parola amore non sapeva cosa fosse, l'ha scoperta più avanti. Ecco, forse potrebbe essere interessante ridefinire la, parola amore, che viene usata molto all'inizio e poco durante e dopo, e invece forse l'amore è una scoperta lenta, progressiva, che dà soddisfazioni nel tempo lungo. Questo mi sembra che sia forse il tema più interessante anche nella mia esperienza personale. Credo che ove sono stato capace di resistere, ho scoperto le qualità dell'amore più che gli svantaggi. Ecco, non ti chiedo il tuo stato attuale, per non essere indiscreta, però Roberto Ruspoli, allora, ridefinire, dice Joël Dix, il concetto di amore, no? Perché si dice non c'è più l'amore di una volta, però effettivamente poi soprattutto nei rapporti disparitari, dispari tra donna e uomo, una volta ancora molto di più, non si sa quanto vero amore fosse, quanto invece le donne alla fine stessero insieme per dipendenza, per sudditanza. Tu hai scritto l'educazione, vi prego, sull'amore e altri consigli per vivere bene, una specie di invocazione, di preghiera, nel senso che ci vorrebbe una pedagogia anche dell'amore? Ma in verità questo libro, più che consigli, è una specie di diario personale che analizza tutti gli aspetti dell'amore, perché quando parliamo di amore parliamo di un argomento vastissimo. C'è l'amore di un artista per il suo lavoro, l'amore di una madre per un figlio, c'è l'amore per un amante, l'amore, insomma, l'amore è un l'amore non per l'altro. Il clacson, devo dire, l'amore non per il clacson che in questo momento ci disturba, però piuttosto ad ampio raggio, diciamo. Sì, esattamente. Quindi, insomma, bisogna capire anche di quale aspetto dell'amore si parla. Scusate il rumore del traffico, ma sono per strada. Ti abbiamo preso proprio nel mezzo del cammin che stai percorrendo in questo momento. Esatto. Ma Alessandro Amadori, invece, Alessandro, quindi meglio prima, meglio adesso, di che amore stiamo parlando? E c'è qualche analista che dice, qualcuno che parla di degrado totale, no? Insieme alla società, anche le relazioni, però qualcuno dice che questo modo di vivere l'amore può sfociare, quindi con matrimoni in crisi, più divorzi, separazioni, le coppie di fatto, può sfociare questo in una nuova consapevolezza in realtà del legame e consolidare invece la fiducia, no? Nell'istituto matrimoniale, come qualcosa da cui ci si allontana, poi lo si vede meglio da lontano, rivalutandolo e rivalutando anche il legame per la vita, non più fondato quindi sulla necessità di assicurarsi il reciproco sostegno, la cura della prole, no? La riproduzione, rimane invece, dice, potrebbe rimanere il sentimento imperniato su una corrispondenza sentimentale più leale, più sincera, più voluta. Ma io direi che stiamo attraversando una fase di transizione, appunto, tra un'epoca che possiamo definire l'epoca della postmodernità, che è stata caratterizzata fondamentalmente da individualismo, edonismo e destrutturazione, destrutturazione degli istituti tradizionali delle società umane. Quindi stiamo passando dalla postmodernità, che aveva queste tre caratteristiche fondative, ad una nuova epoca che qualche studioso, qualche mio collega definisce come neoromantica. Quindi ah, sì? Il punto che tu mi hai dato è corretto dal punto di vista dei trend, dei possibili trend socioculturali. Quindi dal trionfo dell'individualismo anche narcisista, come ci ha descritto molto bene l'avvocato De Pace nella sua descrizione delle patologie dell'amore, dalla apoteosi, dal trionfo dell'edonismo narcisista individualistico, si sta progressivamente passando, come dicevi tu, a una nuova presa di coscienza, coscienza dei fondamentali della vita, un ritorno ai fondamentali, back to basics, e l'amore è certamente uno dei fondamentali della vita, anzi dal mio personale punto di vista è il fondamentale della vita, è la forza per la quale ha veramente senso vivere, è la forza che dà significato alla vita dell'uomo, intendendo l'amore in senso ampio, innanzitutto l'amore fisico e spirituale fra due persone, poi l'amore per la propria professione, poi l'amore per il proprio paese, l'amore per la natura, l'amore per l'ambiente, l'amore per la terra, insomma io credo che si stia tornando a comprendere la necessità, l'assoluta necessità per l'essere umano di vivere pienamente la potenza creativa dell'amore. E quindi è possibile, come dici tu, che si stia sviluppando piano piano, attraverso una transizione non priva di problemi e di difficoltà, si stia sviluppando una nuova consapevolezza. Ecco, qualcuno, ripeto, definisce questo mondo che sta per emergere come un mondo neoromantico. Tu sei d'accordo, Gianna Schelotto? Sì, perfetto, sono assolutamente d'accordo, perché per quello che vedo io, voglio dire, poi quello che sento in giro è un disperato bisogno di amore, nel senso proprio l'amore come linfa vitale, come bisogno di tornare all'essenzialità della vita e dei rapporti. E naturalmente credo che vada distinto l'amore vissuto dall'amore praticato, e quando ci si innamora, quando le persone innamorate si rivolgono a me I sentimenti sono identici a quelli descritti nell'Ottocento, cioè c'è l'ansia di perdere l'amato, c'è la passione, c'è il desiderio, cioè ci sono tutti gli ingredienti tipici dell'amore romantico. Poi nella realtà, come dire, viviamo in una società che rende tutto diverso rispetto al passato, ma questo non significa che non ci sia l'amore nella nostra società. Purtroppo, come dire, viviamo in un tempo di consumismo per cui può accadere che qualcuno pensi che l'amore sia un diritto. Spesso molte donne vivono l'amore come qualcosa che si possa comprare al supermercato, cioè io non ho l'amore, gli altri ce l'hanno, perché io no? Non è più da uomini questa cosa che un supermercato effettivo mi pare che purtroppo ci sia da tanto tempo. Però Gianna Schelotto, mi dice Pietro Lacorte, che è attentissimo alla parte tecnica, che è il momento di fermarsi per una pausa, dobbiamo aggiornare chi sta viaggiando, ci ritroviamo tra pochissimo. Non ci sono più le mezze stagioni. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando poi sarà solo silenzio e freddo tra di noi. L'amore dunque non si spiega e non se ne può fare a meno. Credo che ci sia difficilmente qualcuno che possa fare a meno, forse perché a un certo punto si è chiuso o si è chiusa. Ma Anna Maria Brandini De Pace, tu dicevi, avvocata, divorzista, matrimonialista più famosa d'Italia, e che la vedi un po' più in modo pessimistico rispetto agli altri ospiti, soprattutto Alessandro Amadori e Gianna Schelotto, che parlavano quasi di un neoromanticismo, al di là che poi nella realtà sia effettivamente così, ma c'è questa tensione, forse anche verso una nuova consapevolezza. Non ti sembra il tuo osservatorio? Probabilmente sì, è che da me vengono le persone che distruggono arrivate il loro amore e quindi io per ora vedo quello, spero che mi diminuiscano i clienti progressivamente e quindi posso apprezzare. Così tu puoi andare in pensione poi tranquilla. Posso, felicissima, senza problema. Io personalmente, pur vivendo in queste lacrime e sangue, perché veramente sono lacrime e sangue, io credo all'amore, credo al fatto che bisogna poi trovarsi in due. Io credo all'amore non nel senso così romantico, ma nell'amore come tante prove d'amore, infatti pensieri, comportamenti verso l'altra persona, e il poter guardare in due senza però perdere la propria identità e le proprie caratteristiche. Io sono del parere di Platone che bisogna onorare l'amore. Se c'è l'amore bisogna vivere sapendo che è una preziosità, una cosa importantissima che c'è stata, e quindi non bisogna distruggerla. Purtroppo perché sono aumentati i matrimoni falliti? Perché questo sentimento d'amore anche forte è diventato la variabile del matrimonio. Ma non può essere, scusa Anna Maria se ti interrompo, non può essere che le donne sono diventate più consapevoli di se stesse, quindi più indipendenti, più libere, c'è stato un cambiamento dei ruoli di donna e uomo, anche se non completamente, può dipendere forse anche da questo? E prima si stava più insieme. Per le donne una volta il matrimonio e l'amore erano due cose unite, ma non sempre esisteva l'amore, in quanto ci si sposava anche per risolvere il problema sociale, ci si sposava per necessità, perché così eri stata educata a fare e a progettare, quindi magari ci si voleva innamorare a tutti i costi. Oggi che non c'è questo problema, può darsi che non ci si riesca a innamorare, e quando ci si innamora si vuole quella famosa garanzia e non si ha poi del matrimonio, perché non ci si può far vedere legate a qualcosa di antico, e quindi si vive in modo diverso. E poi devo dirti anche che in questa libertà delle donne, in questo vivere l'amore anche magari con due carriere in casa, marito e moglie, è emerso da un po' di anni e sta emergendo sempre di più questo stranissimo sentimento di invidia che hanno gli uomini verso le donne, per cui le donne che cercano di essere se stesse, come sono oggi, con le pari opportunità giuridiche e sociali, con tutto quello che hanno conquistato, si trovano a dover combattere con un uomo che invece magari è preoccupato, non so, che la donna guadagni di più, che faccia carriera meglio di lui. Gli uomini hanno una sorta di zavorra che si portano dietro, che è l'educazione delle loro mamme, per le quali la moglie deve essere anche un po' servile, e quindi c'è uno scontro alla fine, poi nel matrimonio non ci si ritrovano, insomma. Nel matrimonio succede questo, io vedo che magari vivono molto di più degli amori a distanza, degli amori d'amanti, degli amori che non prevedano la convivenza e la quotidianità, forse perché si può esprimere questo neoromanticismo che mi affascina moltissimo e che adesso mi dà una chiave di lettura dei non matrimoni. Senti, Gianna Schelotto invece, Gianna, quindi mi viene in mente, in base a quello che diceva Anna Maria Bernardini De Pace, il tuo ultimo libro, Un uomo pur che sia, no? Donne in attesa dell'amore, questa storia di varie donne che riflettono un po' la ricerca a volte disperata delle donne di oggi di un uomo col quale veramente creare una relazione forte, seria, no? Sembra che soprattutto superate, che so, i 32-35 anni non ci sia più speranza, e a volte le donne si accontentano di un qualsiasi uomo che incontrano pur di avere accanto qualcuno. Sì, perché c'è una sovrapposizione appunto tra l'amore che può venire o non venire, può accadere o non accadere, e invece quella specie di ordine sociale per il quale una donna che non ha un uomo si sente mutilata, si sente comunque, c'è questa commistione del vecchio e del nuovo, quindi l'autonomia femminile, la libertà, il successo, l'indipendenza economica, che però poi si scontra con questi stereotipi che non sono soltanto maschili ed esterni, ma sono anche dentro le donne, e a un certo punto sono prese dall'angoscia, dalla solitudine o dal famoso orologio biologico che annuncia che forse non riusciranno ad avere dei figli perché sono troppo avanti con gli anni, e questo scatena in queste giovani donne delle ansie terribili. Quando io dicevo prima che è come se loro pensassero che l'amore, siccome tutto si può comprare oggi, tutto si può consumare, e che l'amore sia un qualcosa da acquistare al supermercato, e quindi si sentono impotenti se questa cosa non accade per loro. Questo è, come dire, fonte di grande infelicità tra le donne che hanno conquistato tanto, si sono battute per modificare la propria situazione e per ottenere più diritti, ma che di fronte a tutto questo spesso si smarriscono quando si accorgono che non hanno l'amore. Julie Dix, tu invece prima dicevi che spesso continua a essere un po' anche l'uomo, no? Che forse più di prima vive le relazioni così un po' precariamente. Tu dicevi, io faccio l'attore, quindi questa cosa la sento di più, la comprendo più precariamente, sempre in attesa di una storia ancora migliore, che sarà sicuramente quella che ancora deve venire. Quindi un po' colpa degli uomini, gli uomini sono rimasti così. Sentivamo prima un po' da parte soprattutto di Gianna Schelotto e Anna Maria Bernardini De Pace la parte delle donne. Sono convinto che questa sia una sindrome maschile, perlomeno io la riconosco in me e negli amici che ho, le persone che ho vicine. Però è anche vero che la crescita di consapevolezza da parte degli uomini stessi di questa realtà ha portato gli uomini ad essere anche più capaci di morbidezza. Cioè, io non sono così convinto che il fronte su questo argomento importante sia di genere, ma è più di maturità individuale. Diamo per scontato che ci siano delle pari opportunità, anche se non ne sono così tanto convinto, però diciamo che a quel punto entra in gioco la maturità, i conti che sei riuscito a chiudere con le influenze che hai avuto da giovane, con le storie che hai avuto. Spesso facciamo pagare, maschi e femmine, gli errori o i dolori che abbiamo subito o consumato prima, no? Tante volte il povero malcapitato che arriva si prende un'ondata come uno tsunami di tutti i guasti precedenti, no? E questo quindi è anche un tema che non riguarda solo i maschi. Io sono convinto che ci sia una specie di contraddizione: siamo molto disponibili all'amore quando siamo poco capaci di, ancora di amare, perché l'amore è anche un'esperienza, si migliora, si può molto migliorare nel modo di amare. Ecco, allora siccome hai detto questa cosa così grande e importante che ti dà una certa responsabilità, Joelle Dix, visto che tra due minuti ci devi salutare, allora io ti dico, dalle esperienze precedenti che hai vissuto, siccome hai detto, no, poi l'esperienza ci insegna, poi insomma ad aggiustare un po' il tiro, spesso siamo vittime di quello che ha passato l'altro o l'altra, ci scarica addosso i suoi errori, tu quindi da uomo che insomma forse una certa maturità l'ha raggiunta, dici proprio 3-4 indicazioni, 3-4 cose che hai imparato che si fanno o che non si fanno per stare bene in coppia. Beh, aspetta che prendo appunti, eh. Ecco, ascoltare, sì. Ascoltare, che però è molto importante, è molto profonda come cosa. Ascoltare, cercare di anche di adattarsi un po', per esempio, mm-hmm. cosa che ti insegnavano, insomma, un po' di pazienza, un po' di comprensione. Sapere anche frenare il proprio istinto di aggredire o di desiderare che le cose vadano esattamente come le hai previste, quindi soprattutto lavorare molto sul dentro più che sul fuori. Siamo in una fase nella quale si lavora molto sull'esterno e poco sull'interno, e poi ci si convince che l'esterno sia anche lo specchio di quello che c'è dentro, ma invece non è vero, dentro c'è spesso della roba molto buona che marcisce, resta lì in cantina per tutta la vita. Comunque io sono convinto che verso i 70-75 anni un uomo è prontissimo per una grande storia d'amore. Bene, quindi io ho questa fiducia, siccome non sono ancora vicinissimo, però mi ci sto avvicinando e spero di arrivarci, sono pronto per una grande storia d'amore. Mi fai venire in mente la stagione dell'amore che poi sentiremo allora su tua ispirazione, caro Joelle. Non ti auguro di arrivare prestissimo, diciamo ai 70 anni, seppure insomma hanno i loro pregi, se puoi magari anche prima arrivare ad essere un uomo diciamo perfetto, che già in buona parte lo sarai, è un buon augurio, va bene? Bene. Grazie Joelle Dix, intanto ti salutiamo. Ciao Joelle. Suo ultimo libro, ve lo ricordo, si vede che era destino, evidentemente. Non ci sono più le mezze stagioni. La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà. Roberta Giordano sempre con voi in questa puntata speciale monografica di Non ci sono più le mezze stagioni dedicata all'amore. Direte, ammazza che tema, che cosa impegnativa, però insomma è un tema che non si esaurirà mai, e il bello è che c'è sempre qualcosa da dire ed è quello che muove alla fine tutti gli esseri umani in tutte le parti del mondo in modo diverso a seconda delle culture, una specie di torrente impetuoso sotterraneo che non si può fermare. Cerchiamo così di dare giusto qualche spunto, qualche suggestione in questa puntata con gli ospiti. Ci ha appena salutato Joelle Dix, a cui dedico appunto questa canzone di Battiato, perché diceva forse a 70 anni un uomo arriva veramente alla vera maturità, alla pienezza per vivere con responsabilità e con passione un amore. Noi ci auguriamo ovviamente che si arrivi anche prima. E ci sono sempre con noi Roberto Ruspoli, scrittore e artista, Alessandro Amadori, che è psicologo, ricercatore, direttore dell'Istituto di Ricerca Coesis Research, Gianna Schelotto, psicoterapeuta e scrittrice, Anna Maria Bernardini De Pace, la matrimonialista più famosa d'Italia. Allora io ripartirei da Roberto Ruspoli. Roberto, tu dici, il titolo lo abbiamo detto, L'educazione, vi prego sull'amore, il tuo ultimo libro, e parli anche dice questo volumetto è dedicato a chi ha sofferto per amore ma continua a innamorarsi, a chi ha fatto soffrire e ora agirebbe diversamente, si spera, a chi ha fatto soffrire e meriterebbe una lezione, naturalmente di stile non di vendetta, a chi crede che l'educazione sentimentale andrebbe insegnata nei primi anni di vita. Cosa insegneresti tu? Che cosa chiederesti almeno a chi può essere nel ruolo di insegnante, che sia un insegnante vero e proprio oppure un genitore, per riuscire a dare un'educazione sentimentale giusta, profonda, bambini e bambini? Io, dunque, diciamo che la vera scuola è la vita e l'esperienza vissuta in prima persona, però sicuramente, appunto, prima è stato nominato Platone, ci sono tanti filosofi, tanti scrittori, tanti, nella letteratura troviamo molti esempi d'amore, e secondo me sarebbe interessante inserire questo argomento proprio come una sorta di educazione all'amore per una materia, sarebbe bello se attraverso la letteratura, attraverso l'arte, il cinema, anche si potesse un po' esplorare questo mondo così senza limite che è quello dell'amore, per abituare le persone a riflettere su che cos'è l'amore. L'amore è tante cose, passione, può essere passione, può essere un trasporto irrazionale, ma soprattutto può essere una scelta consapevole. E a mio avviso dovrebbe essere questo, cioè la cosa più bella dell'amore. Oggi penso che le persone cerchino l'amore come evasione, come una sorta di scacciapensieri, come qualcosa che può rendere più bella la vita, sicuramente lo fa, però la cosa più bella dell'amore non è tanto, secondo me, essere amati quanto amare. Ed è questa la lezione più grande che si può ricevere dall'amore, credo. Intendi l'amore anche, mi parli anche di alta infedeltà, tu intendi l'amore più con libertà? No, infedeltà è un monologo che una persona fa, che in questo caso sono io in prima persona, in cui si interroga sulle ragioni della sua infedeltà, sulle motivazioni, su che cos'è veramente l'infedeltà, se dov'è che inizia, se inizia nel pensiero o se nell'atto fisico. Io non do nel libro soluzioni, perché penso che non ci siano, ognuno di noi deve essere in grado di scoprire per sé che cos'è l'amore. La natura è meravigliosa perché ci offre di ogni cosa qualcosa di unico e differente, e trovo che non si possa ridurre le cose ad una regola fondamentale che sia valida per tutti. Quindi sì, sicuramente l'esperienza in prima persona è la cosa migliore. Io nel tempo ho scoperto che la cosa più bella dell'amore, almeno per me, è quello che provo, lo stato in cui sono nel momento in cui amo. È questa congiunzione, questa fusione con tutto. Cioè, mentre l'odio separa, l'amore unisce, apre, ed è questo il miracolo che si compie quando si ama. Quando si ama perché si è presi da una passione travolgente, si possono nella letteratura scoprire le conseguenze, basti pensare ad Anna Karenina, per esempio, o a molti altri eroi come Madame Bovary. E quando invece diventa una scelta consapevole, a quel punto qualsiasi evento che possa accadere non è più una minaccia. Abbiamo l'esempio più sublime, se vogliamo, in Cristo. Però possiamo vedere come anche chi ama ha una forza immensa che in qualche modo lo rende immune da tante frustrazioni che invece le persone sembrano avere nel momento in cui le cose non vanno bene. No? Roberto Ruspoli, allora mi richiami un po' una frase di Martin Luther King che diceva: l'amore è l'unica forza in grado di trasformare un nemico in un amico. E mi ricollego ad Alessandro Amadori, che sta scrivendo questo libro forse appunto legato a un concetto di amore più ampio, più generale, no? Che riguarda proprio i rapporti in generale della società, che anche quelli sono direttamente poi collegati anche al modo di vivere le relazioni a due, o no? Sì. Premetto che può darsi che l'energia del mio cellulare mi abbandoni. Ecco, l'hai poco amato quindi, ultimamente, diciamo, questo cellulare. Quindi approfitto per rispondere a questa bella domanda. Io credo veramente che l'amore vada concettualizzato secondo il concetto freudiano di eros, che non è soltanto l'aspetto erotico e libidico della vita, ma è proprio la potenza che costruisce, la potenza che unisce, l'aspetto anabolico dell'unione, del mettere assieme, del creare attraverso dei materiali di partenza che vengono rielaborati proprio dalla potenza creativa dell'amore. In quanto tale, eros è universale. Lo si trova nel rapporto fra le persone, lo si trova nell'arte, lo si trova nella poesia, lo si trova nella scienza, lo si dovrebbe trovare anche nella politica. E il tema fondamentale del mio libro è proprio questo: il dramma del nostro tempo è che la politica si è allontanata dall'amore, non ha più eros dentro di sé, è diventata una forma di contabilità ragionieristica da cui è assente la dimensione passionale. E questo... Eccoci, sulla dimensione passionale ci ha abbandonato Alessandro Amadori, avrei voluto che ci amasse un po' di più caricando la sua batteria, ma Gianna Schelotto, quindi tu che sei stata tra l'altro anche parlamentare, condividi anche che nella politica è sempre stato così o anche adesso questo generale mancanza di amore o il viverlo in un modo più appunto così disincantato riguardi anche la politica? Nella politica ci vorrebbe più amore così che anche tutto il resto andrebbe meglio? Sì, al di là di certe assurdità come partiti dell'amore, io penso che proprio l'amore, come dire, l'amore ci salva da tante brutture nelle quali, con le quali dobbiamo, siamo costretti a convivere oggi. E l'amore appunto inteso come forza vitale, come energia, come apertura verso l'altro e quindi come il desiderio di conoscere l'altro e di farsi conoscere, senza però partire dalla pretesa che l'altro lo si possa penetrare fino in fondo. Credo che uno dei segreti più importanti dell'amore sia di riconoscere nell'altro e di rispettare nell'altro quel nucleo di inconoscibilità che poi rappresenta la sorpresa del vivere con l'altro. Perché voglio dire, negli anni 70 c'era questo mito del dirsi tutto, del scoprire tutto, della assoluta trasparenza dei sentimenti. Invece no? E forse questo ha rovinato tanti amori, nel senso che se tu non sei disposto a riconoscere nell'altro, cioè a riconoscere all'altro un giardino segreto, e se tu ti interroghi direttamente sai che anche tu hai un giardino segreto, cioè che ci sono dei limiti di indicibilità e di invalicabilità che proteggi, questo è il rispetto reciproco e su questo nasce l'amore, perché ognuno sa dell'altro che c'è un nucleo ignoto e che quindi ci può essere sempre una sorpresa, un riscoprirsi giorno per giorno, un aspettarsi dall'altro l'insolito. Credo che l'amore sia importante anche per questo, non l'amore banalizzato, come dire, del gossip o l'amore mediatico come ci viene presentato adesso, è una cosa molto più complessa, molto profonda e soprattutto è un'energia, è una forza che ci aiuta a sopravvivere appunto nei momenti difficili e nel mondo difficile nel quale ci troviamo immersi. Anna Maria Bernardini De Pace, mi piace molto questo concetto di giardino segreto di Gianna Schelotto, però siccome il tuo ultimo libro si intitola Diritti diversi, la legge negata ai gay, parliamo di amore che riguarda tutti ovviamente, no? Quindi anche in questo senso è cambiato un po', non che prima non vi fossero le persone dello stesso sesso che si amavano, ma adesso c'è un pochino un po' più di libertà e quindi si può venire un pochino più in superficie alla luce, ad amarsi un pochino più liberamente. Uso questo pochino voglia, insistentemente proprio per dire, insomma, non siamo così ottimisti. C'è la voglia e la possibilità di dichiararsi in due, di esprimersi, c'è l'attenzione della società anche verso tutte queste persone che prima dovevano vivere nella vergogna, nella paura e che adesso finalmente possono vivere senza dolore, senza portarsi dietro un carico di pregiudizi che impediva loro di esprimersi anche al meglio. Io sono molto d'accordo sull'idea del giardino segreto, penso che la componente essenziale sia la lealtà, perché le cose non dette o fatte di nascosto, secondo me, rovinano alla base l'amore, sia che sia un amore eterosessuale, sia che sia un amore omosessuale. Poi sono assolutamente convinta di quello che non ricordo più chi l'ha detto, ma è una frase che è un pilastro della mia vita: l'amore è un mistero che dura finché dura il mistero, cioè non si può pretendere di essere completamente spogliati nell'anima dall'altro, c'è sicuramente un nucleo segreto che tiene legate le persone con l'idea che ciascuno potrà scoprire ancora qualcosa, se no diventa tutto scontato. Quello che c'è di brutto oggi nel vivere nell'amore, nello scoprire l'amore e che porta a sbagliarsi anche sull'amore è che si comincia dal sesso e poi si va alla ricerca dei sentimenti e delle caratteristiche dell'altro. Oggi invece di darsi la mano, di conoscersi, di fare, si fa sesso e poi forse nel tempo si cerca se vanno bene delle altre cose. Così capita che molti si confondano, perché confondono la passione erotica con quello che è l'eros inteso, come diceva Amadori, in senso forte, di potenza vitale, creatrice, che costruisce, crea e mette insieme. E invece è tutto basato sull'interno. Linguaggio erotico, sulla seduttività, sulla potenza virile, e tutto questo crea un percorso accidentato che porta magari anche a credere che è l'amore, Perché poi, per esempio, io vedo nei matrimoni, appena nasce un figlio e non si può esprimere la sessualità, che magari è l'unico luogo di comunicazione autentica di quelle persone, la sessualità non si può esprimere con la stessa libertà, così, stessa, insomma, in qualsiasi momento, certo, eccetera, immediatamente mette in crisi le persone, che poi strumentalizzano i figli, dicono: siccome sono nati bambini, allora non ci possiamo parlare, non si può vedere. E questo, secondo me, è uno dei punti drammatici del nostro tempo. Non si può conoscersi subito attraverso il sesso. Ecco, il sesso poi deve essere un punto d'arrivo. Non ci sono più le mezze stagioni. L'amore conta, l'amore conta. Conosci un altro modo per fregare la morte. Conosci un altro modo per fregare la morte. Questo è un concetto bellissimo, effettivamente. In questo caso è di Ligabue. E diceva Thomas Mann, lo scrittore: l'amore, non la ragione, che è più forte della morte. Forse Ligabue si è in qualche modo ispirato a questa frase di Thomas Mann. Sempre Roberta Giordano con voi in una puntata monografica tutta dedicata all'amore. Credo che ci abbia però abbandonato, nonostante ci amasse parecchio, Alessandro Amadori, psicologo e ricercatore e direttore del Coesis Research. Evidentemente la sua batteria è completamente andata. Abbiamo salutato Gioele Dix poco fa e ci sono sempre in collegamento Anna Maria Bernardini De Pace, avvocata divorzista, Gianna Schelotto, psicoterapeuta e scrittrice, Roberto Ruspoli, attore e scrittore. Gianna Schelotto, a proposito di questa spiegazione che dava, fra le varie, Anna Maria Bernardini De Pace, sul fatto che poi le storie cedono piuttosto presto, no? Che prima ci si conosceva, ci si corteggiava e dal conoscersi poi si arrivava piano piano al sesso, al rapporto sessuale, a conoscersi attraverso la sessualità. Adesso è il contrario: prima la sessualità e poi il resto. C'è qualcuno che dice in realtà che le due cose corrispondono, anche questa è una diatriba infinita, no? Che non si capisce se sono divise oppure sono la stessa cosa. Tu cosa ne pensi, Gianna? Ma io penso che all'interno di una, appunto, qui stiamo parlando, come dire, genericamente di sentimenti esterni, ma molto dipende dalla maturità delle persone che si amano e dalla capacità di amarsi di queste persone, perché è chiaro che se tutti ci aspettiamo che l'amore sia quello dell'innamoramento, quindi lo scompiglio, la passione, il vortice amoroso sia sessuale che emotivo, e che ci illudiamo che possa mantenere questi ritmi per tutto il tempo che abbiamo davanti, è chiaro che questa attesa non è realistica. Ed è come l'adolescenza, come dire, la passione è l'adolescenza dell'amore, poi l'amore cresce, non restiamo adolescenti per tutta la vita, si passa dall'adolescenza alla maturità e nella maturità si godono i frutti dei fiori che l'adolescenza ha espresso. Gianna, ti devo dire sinceramente, ti voglio fare questa domanda. Secondo te questo è un, mi direi di no visto che è la tua convinzione, ma è un concetto in qualche modo conservatore, nel senso che le cose cambiano? Per esempio mi viene in mente un filosofo francese di cui adesso non ricordo il nome, che già 2-3 anni fa aveva detto: io immagino una società, secondo me sarà così tra pochi anni, in cui tutti saranno singoli, in cui ognuno passerà da una storia all'altra, dello stesso sesso, dello stesso diverso, si faranno pochi figli, si vivranno piuttosto in comune questi figli e ognuno vivrà questa sua individualità in modo legittimo, libertario, perché è giusto che la società si evolva e che ognuno viva la propria sessualità, la passione, eccetera, come crede. Quindi il fatto che si debba passare necessariamente, come insomma diciamo è il concetto più diffuso, dalla passione, innamoramento iniziale a qualcosa che è più maturo, quindi non allontanarsi perché tutti i primi stravolgimenti insomma si assopiscono, ti sembra che possa essere un pensiero conservatore o questo o io non so se questo possa essere considerato un pensiero conservatore. So per certo, è chiaro che tutti noi sappiamo che non esiste l'amore eterno, cioè quell'amore per cui appunto l'amore eterno finché dura, diceva un titolo di un film. Cioè, è chiaro questo, però è anche vero che il desiderio individuale, quando ci si trova immersi in una situazione amorosa, è quello di farlo durare più a lungo possibile. È anche vero che non è poi così semplice passare dall'uno all'altro. Perché appunto ci si accorge molto presto che in questi passaggi da una persona all'altra non c'è l'attesa non è sulle persone che devono essere diverse che cambiano, ma siamo noi che abbiamo bisogno di verificare dentro di noi che cosa ci aspettiamo veramente dall'amore. È questo che rende tutto così complesso e difficile. Noi pensiamo che debba essere sempre l'altro a darci quello che ci aspettiamo dall'amore, ma finché non siamo noi a renderci disponibili e a scoprire che cosa ci aspettiamo dall'altro, è chiaro che questa coppia non sarà mai felice, non sarà mai matura e non sarà mai pronta per andare avanti nella vita. Roberto Ruspoli, cosa ci aspettiamo quindi dall'amore? Anche se avevo fatto questa domanda un po' provocatoria a Gianna Schelotto prima, perché condivido abbastanza, poi ognuno dopo segue il proprio cammino, il proprio cuore, eccetera, eccetera, quello che hai detto prima, cioè non si può ridurre il tutto a una regola precisa, ferrea, che valga per tutti. Tu intendevi questo o cosa intendevi? No, io intendevo quello che ho detto prima, che la cosa miracolosa dell'amore è lo stato in cui ci si trova ad essere nel momento in cui si ama, e sono d'accordo sul fatto che più che aspettarsi dagli altri determinate cose bisogna essere in grado di innanzitutto di amare, poi ci si può lamentare del fatto che l'amore dell'altro magari non corrisponde alle nostre aspettative, però quello che è bello dell'amore, il dono vero dell'amore, per me, almeno parlo personalmente, è lo stato dell'amore, nel senso lo stato in cui ci si trova quando si ama. Io ma è più innamoramento quello di cui parli, o proprio nel senso anche di quella coppia che arriva a una maturità dopo tanto tempo e capisce che ci sono delle trasformazioni fisiologiche? L'amore si misura col tempo, è molto facile amarsi quando c'è il desiderio, il trasporto e il sesso appunto di cui parlavamo prima, ma l'amore, sono d'accordo con il fatto che la passione è l'adolescenza dell'amore, perché la bellezza dell'amore è proprio quello di poi rinnovarsi, di continuare anche là dove le cose magari non vanno molto bene, perché è facile amare quando tutto è rose e fiori, l'amore si mette alla prova quando le cose non sono invece così semplici. Io penso che l'amore più grande che si possa trovare nell'essere umano forse è quello che ha una madre per un figlio, no? Per cui anche quando questo figlio sbaglia, fa delle cose così che non sono in accordo con le aspettative del genitore, almeno idealmente questo amore continua, e così dovrebbe essere un po' l'amore nel suo stato più alto. Ecco, io credo che sia un po' frustrante questo, che magari si cerca sempre l'amore incondizionato nella madre, nella propria vita, ma non si può, credo, avere quella stessa dimensione. Questa è un'idea, è un simbolo, perché poi vediamo che la gente butta i figli nei cassonetti, scusate l'espressione un po' forte. Può essere retorica, però anche quella, però nella maggior parte dei casi, insomma, l'amore tra una madre e un figlio. È vero che l'idea di una madre, dell'amore di una madre per un figlio, per me è molto un'icona di quello che dovrebbe essere l'amore. Cioè, certo. L'amore è un desiderio di dare ed è un piacere nel darsi. E adesso scusa Roberto Ruspoli, abbiamo 2 minuti, vorrei una conclusione da Anna Maria Bernardini De Pace, visto che tu hai il tuo, dicevo, osservatorio privilegiato di quanti errori sono stati fatti e come le coppie arrivano alla frutta. Dici 2 o 3 cose da seguire, insomma, da indicazioni dei salvagenti, della prevenzione nell'amore, diciamo. La prevenzione è quella appunto di non ascoltare l'orologio biologico come fanno molti, o le aspettative dei genitori, ma vivere nella libertà della propria esistenza, del proprio essere, soltanto la libertà di scegliere se capire l'amore, se volere l'amore, se sposarsi, con chi sposarsi, se amare un uomo o amare una donna, o amare una persona di sesso diverso o dello stesso sesso, fa parte della libertà interiore. Se non c'è libertà interiore non si può essere nelle condizioni di amare, non si può essere nelle condizioni di trovare, come diceva Petrarca, colei che solo a me par donna, o cambiando, colui che solo a me par uomo, e quindi cercare la persona giusta, alla quale c'è il piacere di dare, perché è vero, io sono d'accordissimo con Ruspoli che la cosa più bella è amare, è ancora più bello che essere amati, amare e poter dare. Invece oggi si chiede e non si offre, c'è molta aggressività verbale, c'è molta aggressività comportamentale, c'è la ricerca delle garanzie, c'è tutto quello che non dovrebbe essere un contorno dell'amore. L'amore non deve necessariamente portare al matrimonio, può essere bello, importante. E questa mi pare, Anna Maria Benedetti Pace, una conclusione ottima, ognuno con la propria libertà interiore ed esteriore, ma sempre con responsabilità e profondità. Diceva Dante che l'amore muove il sole e le altre stelle. A voi l'ardua sentenza. Intanto io saluto Anna Maria Benedetti Pace, Gianna Schelotto, Alessandro Amadori, Roberto Ruspoli, Gioele Dix, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti e anche Amori. A tutti.